Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi. Beh, si può dare di più, molti di voi penseranno: per carità, ho già dato, più di così non posso. A che punto siete? Avete finito di fare i regali o manca ancora qualcuno all'appello? In ogni caso, facciamoci un regalo noi. Siamo insieme e oggi insieme a me qua in studio il dottor Roberto Boffi, l'avevo invitato e eccolo qua. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, perché tra i regali che possiamo fare a noi, ma anche fare alle persone che amiamo, che ci stanno accanto, c'è anche quella di smettere di fumare. Eh sì. Sarebbe un bel regalo. Lei aiuta a realizzare questi desideri a molte persone. Sì, diciamo che il Natale, così come il Capodanno, insomma, le festività spesso sono dei periodi che aiutano, ecco, perché le persone magari si mettono lì, riflettono e decidono magari di essere più buone con se stessi, di voler più bene magari anche al proprio corpo e all'aria attorno a sé e ai propri cari, e smette di fumare qualcosa di contagioso, ma positivamente contagioso. E quindi molti magari colgono l'occasione del Natale o del Capodanno per tirare una riga e ripartire Bravo, da capo in maniera una svolta, più salutare. Sì. Perché ci meritiamo questo, di farci questo bel regalo. E l'invito è rivolto soprattutto alle nostre ascoltatrici. Eh sì. Noi donne nell'ultimo anno... Un milione di fumatrici in più, soprattutto le ragazzine. Però penso che spero che la riscossa Dai. Contro il fumo e i danni dal fumo parta proprio da voi donne. Facciamoci questo regalo, ce lo meritiamo, dobbiamo impegnarci, possiamo farcela, noi vi aiuteremo, perché io coinvolgerò anche nel 2018 il dottor Boffi e faremo un pezzo di strada insieme, perché... secondo me, lei ha sottolineato un aspetto che mi piace molto, che smettere di fumare può essere contagioso, positivamente contagioso, si può smettere anche per amore, per fare un dono anche. Ci sono quelli che danno poco del molto che hanno e lo danno per ottenere riconoscenza, ma questo segreto di desiderio guasta i loro doni. E ci sono quelli che hanno poco e danno molto. Sono quelli che credono nella vita e nella generosità della vita. E il loro scrigno non è mai vuoto. Ci sono quelli che danno con gioia e quella gioia è la loro ricompensa. E ci sono quelli che danno con dolore e questo dolore è il loro battesimo. È bene dare quanto si è richiesti, ma è meglio dare quando, pur non essendo richiesti, si comprendono i bisogni degli altri. Tutto ciò che hai, un giorno o l'altro, sarà dato via. Perciò, da adesso, così che la stagione del dare sia la tua, non quella dei tuoi eredi. Khalil Gibran. Dai, mancano pochi giorni a Natale, adesso siamo presi dalla frenesia, acquista regali, prepara la tavola, fai la spesa, gli ultimi dettagli, gli ultimi inviti, ma arriverà il Natale, io ve lo auguro di tutto cuore che sia un Natale vero, una vera festa del dono. E ringrazio anche Alessandra De Luca che ci ha trasportato con questi versi in un'atmosfera così, dottor Boffi, un po' da batticuore, vero? È commovente quando ci sono delle parole che arrivano al nostro cuore, ma intanto io voglio continuare a parlare di dono, perché il dono racconta molto di noi e ho chiamato un'amica, la dottoressa Tatiana Torti, psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno Nicoletta. Insomma, ha fatto anche lei la sua buona azione. Certo, a Natale siamo tutti più buoni. È vero, a Natale siamo presi da quella frenesia di essere o di mostrarci buoni, ecco che arriva il regalo, il pensierino, la telefonata, il bigliettino d'auguri, il pranzo con la zia che durante l'anno evitiamo con mille acrobazie, gli auguri anche a quel vicino di casa con cui nelle riunioni di condominio ci scagniamo. E insomma, è la magia del Natale Dottoressa Torti, dei neuroni specchio, insomma, che cosa dicono le neuroscienze che hanno cercato di mettere anche questo nostro comportamento sotto la lente? Beh, allora, come dicevamo, a Natale si è tutti più buoni, o perlomeno ci diamo questa sorta di autocomando, e questo appunto, un autocomando che noi ci diamo, modifica almeno in parte e comunque almeno temporaneamente un nostro comportamento. In questo caso nel cervello avvengono sicuramente dei cambiamenti, fare un regalino, scambiarsi gli auguri può modificare sicuramente le nostre emozioni, sentirci più buoni ci fa sentire meglio in generale e sicuramente ci fa compiere uno sforzo di empatia verso l'altro, verso chiunque altro, con l'attivazione di tutti quei circuiti neuronali legati al processo di comprensione profonda della persona che ho davanti. C'è chi cerca accuratamente di fare un regalo particolare, magari unico, c'è chi si accontenta di trovare un regalo qualsiasi. Dipende dalla persona che siamo. Se vogliamo fare una sorta di identikit, potremmo dire, pensiamo al fatto se siamo introversi o estroversi, quindi siamo più inclini alla comunicazione oppure no. Questo è appunto la relazione. Mi piace comunicare qualcosa oppure sono più introversa, quindi mi tengo un pochino sulle mie. Oppure siamo più intellettuali o pratici, allora c'è chi regalerebbe sempre libri, c'è chi ama invece oggetti di utilità. C'è, dottoressa Torti, chi prova più piacere a fare i regali che a riceverli. Se io dico grazie, sto rinforzando il comportamento della persona che ha di fronte e lo gratifico. Se vogliamo parlare un po' di categorie, potremmo dire il narcisista ama fare regali per mettere in luce se stesso, probabilmente, e riceverli come segnale della sua grandezza. Mentre chi è davvero molto empatico, cioè ama fare quello sforzo per accontentare e capire l'altro, probabilmente centrerà più spesso il regalo adatto, perché appunto cerca di capire i reali desideri e bisogni della persona che si ha di fronte. E ricordiamoci in proposito del provare piacere e soddisfazione a fare regali del dono del tempo, per esempio, che una persona può compiere tutto l'anno facendo anche il volontariato. E noi proprio di questo parleremo, di questo dono particolare. Intanto iniziamo così a preparare gli auguri e gli abbracci per i volontari e anche per i donatori di sangue. Tra poco ne parleremo, ma dottoressa Torti, un vecchio adagio dice chi la fa l'aspetti. E noi in realtà quando facciamo un regalo, in fondo, ci aspettiamo anche di essere contraccambiati. Talvolta le nostre aspettative vengono deluse indipendentemente dal valore del regalo. Perché non ci si sente compresi, ecco il punto, e poi alla fine realmente amati per quello che siamo. Allora, io direi anche messi quasi in primo piano, perché se io faccio un regalo a una persona, in qualche modo la persona si aspetta che sia conosciuta, cioè che ci si conosca, che i desideri vengano compresi. Allora direi, quando facciamo regali cerchiamo di capire cosa l'altro desideri mettendolo davvero in primo piano e noi lasciandoci un attimino in secondo piano. In questo modo probabilmente non deluderemo le aspettative. E soprattutto lo ricordiamo, spesso nelle coppie lo spacchettamento dei regali diventa un po' occasione poi di litigio. Mi fai sempre il solito regalo. Ecco, dottoressa Torti. Ci sono persone che davvero da questi punti di vista si arrabbiano, diventano collerici, perché appunto c'è il discorso del come, non mi conosci. In questo caso è per quello che dico, ricordiamoci magari con maggiore attenzione di alcuni dettagli e sicuramente arriveremo un po' al regalo giusto, anche se il regalo giusto non esiste, però probabilmente quello più idoneo e gradito sì. Ecco, il regalo giusto è quello sempre che facciamo noi, esatto. Quello che ci fanno gli altri, non sempre. Comunque un consiglio, fatevi aiutare dall'amico, dall'amica, insomma chiedete, facciamo rete per fare gol. Sono ben voluti. Dottoressa Torti, auguri. Auguri a voi. Grazie, auguri, tanti auguri belli. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme. Obiettivo Salute Weekend. Ora passo a presentarvi la futura Mrs. Exclusive, Grace Camp. Eccola qua! Guardatela! Non è bellissima! Ha appena donato il sangue e ne ha ancora abbastanza per arrossire come una mammola. Eh sì, dietro ogni grande uomo c'è una donna che alza gli occhi al cielo, gente. Sono Bruce Nolan per Eyewitness News con tutti gli amici qui della donazione di sangue che vi ricordano... Sì, il tuo miracolo! E siamo tornati insieme, parliamo di dono, parliamo di questa atmosfera natalizia, siamo all'antivigilia, restate con me. E stavo pensando che molte persone possono festeggiare il Natale, condurre una vita normale, proprio perché? Perché hanno ricevuto un dono importante, prezioso e naturale. Qualcuno, volontariamente in forma assolutamente anonima e con grande responsabilità, ha donato una parte di sé, ha donato il suo sangue. Buongiorno e buon Natale, Aldo Zino Caligaris, presidente nazionale FIDAS. Aldo, a voi. Che bello essere qua con te, un'occasione anche per dire un grande grazie a tutti i donatori del sangue. Indubbiamente, quest'anno anche i donatori hanno fatto la loro parte, hanno contribuito con un dono volontario e responsabile ad assicurare a oltre 700.000 pazienti una terapia sicura e disponibile fatta di emocomponenti, e poi consideriamo anche tutti i pazienti che hanno ricevuto farmaci plasma derivati. Di sangue ce n'è sempre bisogno, ce n'è bisogno nel pronto soccorso, nelle sale operatorie, in corsia. Il sangue serve a salvare la vita delle persone, a mantenerle in vita, a curarle. I donatori abituali di questo sono consapevoli, e questo pensiero dovrebbe spingere sempre più persone a diventarlo. Ognuno di noi, d'altronde, potrebbe avere bisogno di questo bene naturale e prezioso. Sicuramente, ogni giorno c'è la possibilità di contribuire in maniera programmata e in maniera responsabile ad assicurare, donando ciò che serve quando serve, l'emocomponente giusto, del gruppo sanguigno giusto, per far sì che appunto ogni cittadino che abbia bisogno o nella routine o in urgenza-emergenza di terapia trasfusionale abbia questo presidio a disposizione. Ricordiamo che il sangue non si fabbrica in laboratorio, non si produce a livello farmaceutico, l'unico modo di averlo è attraverso la disponibilità di un dono di materiale biologico umano che viene destinata alla terapia di altre persone. E d'altronde non possiamo non sottolineare il valore civico e sociale della donazione del sangue. Valore civico e di partecipazione a quello che è un'esigenza di tutti, e quindi il valore sociale, il valore etico della donazione va sicuramente oltre quello che può essere un ritorno utilitaristico, che comunque c'è nella donazione, perché il donatore tiene sotto controllo il proprio stato di salute. Certo. Il donatore sa di avere determinati comportamenti, stili di vita che servono a garantire se stessi, ma servono soprattutto a tutelare il ricevente. Qui in studio con me, Aldo, c'è il dottor Boffi, che aiuta le persone a farsi un dono grande, quello di smettere di fumare. Ma chi fuma, Aldo, può donare? Allora, i donatori fumatori non vengono esclusi dalla donazione, a meno che i valori tenuti in considerazione ai fini della valutazione dell'idoneità ovviamente dimostrino che non sono valori adatti a effettuare una donazione. In caso per esempio di valori di emoglobina eccessivamente elevati, che a volte si verificano nei grandi fumatori. Certamente noi sconsigliamo al donatore fumatore di donare nelle ore immediatamente successive alla donazione, perché aver sottratto una piccola parte di globuli rossi e quindi di emoglobina comporta la possibilità di dare meno ossigeno ai tessuti, e quindi ovviamente il fumo non fa bene a chi ha donato il sangue da poco. Dottor Boffi, voleva intervenire? Sì, volevo dire che la donazione è anche una, può essere anche una grande carta motivazionale per il fumatore per smettere di fumare. Tanto è vero che dal nostro centro trasfusionale dell'Istituto dei Tumori spesso ci vengono inviati i fumatori, hanno ha diritto in quanto donatori a una visita al centro antifumo gratuita, e spesso loro hanno quella, appunto, quella motivazione in più, che è quella di donare un sangue più pulito e di correre, come diceva il collega, meno rischi dopo la donazione, perché hanno più ossigeno e quindi risentono meno del sangue che gli viene prelevato, e quindi sono fumatori che danno di solito una grande soddisfazione a se stessi e agli altri, contagiano positivamente facendo smettere di fumare anche i loro amici e familiari. Sono contenta di avere in linea Aldo Zino Caligaris e di avere qua in studio il dottor Boffi, perché possiamo lanciare proprio per questo anno che si chiude: smettete di fumare e diventate donatori. Aldo, ti piace? Proposta fantastica. Sarebbe straordinario. Sì, esatto. sposa pienamente quello che è l'invito che noi facciamo alle persone che si devono avvicinare a questo gesto di volontariato, che unisce ovviamente alla disponibilità di donare sangue o emocomponenti e l'esigenza di seguire dei corretti stili di vita. E tra i corretti stili di vita direi che il fumo è in pole position come motivo diciamo di prevenzione e sicuramente di ottimo comportamento per fare del bene a sé e far del bene agli altri. Grazie Aldo, buon Natale e un buon Natale a tutti i donatori di sangue che ci stanno seguendo, anche a chi naturalmente non ci segue. Anche in questo caso speriamo, come dice il dottor Boffi, che anche per la donazione di sangue questo desiderio di emulazione sia così forte. Grazie Aldo. Grazie a voi e un abbraccio, auguri veramente a tutti. Un abbraccio grande. Allora, dottor Boffi, abbiamo deciso di donare e quindi questo è un dono grande, ma abbiamo deciso anche di provare a smettere di fumare. Abbiamo dedicato a questa sfida proprio un video, a Obiettivo Salute Video, ma dottor Boffi, a lei la parola. Ci concentriamo e definiamo un po' un percorso. Deve essere personalizzato, adesso si potrà tra poco attraverso un prelievo di sangue. Sì, capire anche se c'è una maggior o minor predisposizione genetica a far fatica a smettere di fumare e a non ricadere. Non è un esame che ancora possa essere introdotto in larga scala, però più informazioni riusciremo ad avere per caratterizzare meglio poi il percorso terapeutico, che sia farmacologico o anche solo psicologico, più avremo sicuramente percentuali ancora più elevate di cessazione. Attenzione, non è una cosa da prendere a nostro così per far scuse, cioè sono geneticamente predisposto a fumare oppure non sono geneticamente, quindi quando voglio smetto, quindi mai smetto. Non funziona così, è proprio un test che permette di arrivare ad una terapia personalizzata, esatto, anche per smettere di fumare. Ma dirò più, anche per investire meglio le risorse del sistema sanitario, per non buttare via soldi inutilmente in farmaci o in supporto. Perché ci sono persone che riescono a smettere da sole, persone che hanno bisogno di assumere una terapia, persone che hanno bisogno di essere supportate psicologicamente. Io vi porto in un centro antifumo dove c'è la possibilità di essere seguito da personale qualificato. Già adesso comunque ci sono degli strumenti con dei questionari e con la misurazione del monossido di carbonio nell'aria esalata per far capire al fumatore che abbiamo di fronte qual è il suo grado di dipendenza dalla nicotina, quindi la dipendenza fisica. Ricordiamoci che fumare è una dipendenza e quindi anche poi una schiavitù anche economica, sociale, ma prima di tutto fisica. E in più, se avremo, spero che presto lo potremo almeno introdurre all'Istituto dei Tumori e in altri centri magari che aderiranno a questo nostro studio prospettico, questa valutazione con un semplice prelievo del sangue della componente genetica legata sicuramente al fumo, potremo ulteriormente più, certo, spiegare alle persone qual è il percorso migliore per loro. Comunque già adesso ci sono dei farmaci di provata efficacia, per cui i forti fumatori, quelli che fumano più di un pacchetto, almeno un pacchetto al giorno, ecco, per intenderci, sicuramente sarebbe meglio che parlassero col loro medico di famiglia o anche con i medici del centro antifumo per farsi consigliare una terapia più adeguata. Certo, questo è il periodo utile, quello delle feste, periodo in cui si è magari anche più calmi, più predisposti magari anche ad accettare che qualche giorno la voglia di fumare ti dia un po' fastidio, ma sono pochi minuti ogni volta, per cui a volte in quei pochi minuti in cui viene la voglia di accendersi una sigaretta, lei che cosa suggerisce? Mangiare una caramella, farsi un giro, sì, certo, cantare una canzone, litigare con la moglie. Mi ricordo mio papà quando aveva smesso di fumare, mia mamma diceva: Augusto, ti prego, ricomincia, perché sei un inferno. Chissà quanti compagni di chi smette di fumare si saranno lamentati con lei. Dottore, le ha fatto smettere di fumare, ma è diventato un inferno. No, poi passa, poi tornano, poi si torna normale. Il mio consiglio è: si guadagna tempo quando si smette di fumare, no? Manualità, le mani più libere, così. Allora il mio consiglio è di impiegarlo a fare cose che piacciono, no? Se a uno piace fare le parole incrociate o il sudoku, va benissimo. Se a uno piace leggere una poesia, Comunque teniamo conto, quello. E lei l'aveva fatto, mi ricordo della storia bellissima di quella taxista che aveva... Sì. Si era messa a lavorare a ricamo, che era, perché aveva guadagnato tempo, allora, quindi tra una chiamata e l'altra, poi dopo è andata anche su riviste di ricamo, dove ha fatto vedere i suoi bellissimi lavori, perché ha guadagnato ore della giornata. Si guadagnano ore, si guadagna salute anche, si risparmiano soldi che possono essere investiti in altro modo. Qua avremo bisogno dei consigli di Deborah, che inviterò la prossima volta. Sono intanto proprio soldi che vanno in fumo, no? Quindi... non mandate i vostri soldi nella vostra salute, soprattutto in fumo. Dottor Boffi, nel nostro appuntamento con Obiettivo Salute Video abbiamo parlato anche delle sigarette elettroniche di vecchia e nuova generazione. Abbiamo pochi minuti prima di salutare i nostri amici. Un flash sulla sua posizione, non la posizione di Roberto Boffi, ma la posizione della ricerca, che sì. No, anche la anche sua delle mi interessa, ma è della società scientifica. Dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè un principio di precauzione, le sigarette elettroniche meglio se con cartucce senza nicotina o con dosaggi non elevati di nicotina. Meglio se venduti e quindi acquistati in farmacia, possono essere sicuramente una buona strategia per danneggiarsi meno. Siamo molto più prudenti e perplessi sulle nuove sigarette elettroniche, quelle col tabacco riscaldato, perché sicuramente noi all'Istituto Mori abbiamo trovato in particolare elevate concentrazioni di una sostanza cancerogena che è la formaldeide e di un metallo tossico che è lo stagno, per cui lì siamo ovviamente meno più scettici e non possiamo consegnare, noi a un anno diamo il diploma e lo spillino di esfumatore a persone che assumono ancora il tabacco, anche se fumandolo in maniera fredda. Oltretutto devo dire che c'è un altro problema importante, che è quello dei cosiddetti fumatori duali. Questo vale anche per le vecchie sigarette elettroniche, che fumano, cioè quelli che fumano quelle di una volta, diciamo così, e dentro quelle nuove. Ecco, questo ovviamente non è un bene per loro e neanche per l'ambiente, allora, dove vivono. Nell'attesa che la ricerca vada avanti e che voi prendiate questa decisione, io intanto vi dico: una fetta di panettone in più, una sigaretta in meno, possiamo dire. Volentieri. Così, un abbraccio in più, due sigarette in meno. Cerchiamo un po' di fare dei baratti salutari in questi giorni di arrivo che ci fino aspettano. Al salmone affumicato, ecco, lì lo concedo. Anche il salmone affumicato naturalmente offre il dottor Boffi. No, mandate le vostre richieste. Legittimo. Dottor Boffi, grazie, auguri, buon Natale, ci aspetto un 2018 bello, buono, pieno di salute, soprattutto di buoni propositi. Grazie per essere stato Obiettivo Salute Weekend. Noi ci sentiamo domani, come sempre, alla Bufala in Tavola, sempre a mezzogiorno. Buonissima giornata da Nicoletta, la vostra salutare ossessione quotidiana. Guardi, senta quante S. Buona giornata.